bentornati a Radio Wombat. Dopo un po' di tempo che non ci sentivamo, siamo ancora in diretta su La Revancia. E questa è la prossima puntata della Revancia, punk, hardcore e dintorni su Radio Wombat. Vi ricordiamo dove potete trovarci: sul sito wombat.noblogs.org, oppure su Twitter, twitter.com/radiowombatv, il Facebook, il classico facebook.com/radio-wombat-firenze, oppure email a postawombat@siberia.net. Ringraziamo i ragazzi di Fuoco alle Polveri che ci hanno preceduto. E niente, adesso ci tuffiamo direttamente nel punk hardcore texano degli anni 80, ma non solo, e non solo punk hardcore. Andiamo a visitare dei luoghi bellissimi che consiglio a tutti. Ci sono stato con questo rumore di sottofondo, così oggi ho voluto sperimentare il loop di rumore. Abbassiamo perché forse dà un po' noia, così è meglio, meglio del sottovuoto. Abbiamo sentito come sempre in apertura Mad degli Spaz, tratta dalla Revancia, nonché cover di Crypti Slaughter. Ripeto ancora perché ho scelto questa canzone come sigla e come, innanzitutto, La Revancia, uno dei migliori dischi moderni del punk, Power Violence, tutti i crismi del genere, sperimentazione, velocità, lentezza, sperimentazione, rumore. Cover dei Crypti Slaughter, gruppo fondamentale del thrashcore. E niente, adesso andiamo avanti e parliamo del punk hardcore in Texas. Perché proprio il Texas? Perché parlare della California? È troppo facile. Io mi sono detto, facciamo la puntata sul Texas, in quanto l'anno scorso siamo andati a suonare lì con il nostro gruppo, ci siamo trovati bene, i kids, come dicono loro in America, sono strapositivi, strapresi bene, abbiamo respirato un bellissimo clima. E niente, il perché di questo clima forse sta nelle radici del punk da quelle parti, in gruppi che ascolteremo oggi tipo i DRI, i Dix, gli MDC. Però partiamo da prima, partiamo da gruppi semi sconosciuti, partiamo dai Really Red, che nell'81 fecero uscire un disco che si chiama Teaching You the Fear, da cui è tratta la canzone, che è stato poi ristampato per l'Alternative Tentacles di un certo Yellow Biafra, non so, cantante di un gruppetto di cui non ricordo il nome, ma voi sapete sicuramente chi è. E quindi ci sentiamo Telling You the Fear, che sta Teaching You the Fear. Really Red, go. Take one black man sitting on his own. The Lord created the earth and the seas. But on the seventh day, God rested his prick in Satan's butt. Da Dallas. Adesso ci spostiamo un po' più a sud di Dallas, se non mi ricordo male. Dallas è più a nord. Andiamo a San Antonio e ci colleghiamo con i Battle Surfer, un gruppo seminale della schizofrenia generale che nasce alla fine degli anni 80. E vi farò sentire un pezzo tratto da Independent Worm Saloon del 1993. E niente, questi sono i Battle Surfer che andò a cercare qui nella mia lista. Dove cazzo state? Eccoli qua, li avevo messi prima. Who Was In My Room è il titolo del pezzo. Pezzo del 93, Battle Surfer. Go! We'll be right back. Maru, Last Night del 1993. E adesso andiamo avanti, torniamo, anzi rimaniamo lì o torniamo, o che cazzo si fa, andiamo avanti. Siamo sempre in Texas, siamo sempre negli anni 80. Adesso ci sarà una bella triade di gruppi storici di quella zona lì. Partiamo con gli MDC. Partiamo con gli MDC, un gruppo nativo di Austin che poi si sposta a San Francisco per cercare fortuna nell'hardcore e non solo. Gli MDC sono il primo gruppo con un cantante dichiaratamente gay. Girano in lungo e largo in America e anche in Europa. Verranno tra l'altro a suonare in Italia e mi sembra di aver visto una data al Paso quest'estate, quindi sono ancora in attività, li ho visti suonare diverse volte, tra cui un mitico concerto a Roma con i Tear Me Down e non solo. Adesso ci sentiamo un loro pezzo storico che si chiama John Wayne Was a Nazi. Ah, tra l'altro sì, loro sono MDC, che vuol dire, boh, ogni volta c'era un significato diverso all'acronimo. Million of Dead Cops è quello più famoso. Adesso ci sentiamo John Wayne Was a Nazi, un pezzo dell'81 dell'album Million of Dead Cops. E che dite? Si va? Go! Dicevano di sì, chissà se è vero. Boh, rimaniamo sempre ad Austin, rimaniamo sempre negli anni 80, rimaniamo in questa città che ha dato i natali a tanti gruppi brutti, sporchi e imbecilli, come appunto i DRI, Dirty Rotten Imbecilis, gruppo seminale del trashcore. Ci sentiamo un loro inno, diciamo, Violent Pacification, che è uscito nell'84, tratto dal loro secondo EP, si chiama EP, che ha dato, diciamo, un po' l'inizio della svolta al loro genere futuro, perché nascono come gruppo hardcore, uno dei più veloci dell'epoca, per poi diventare il culmine, diciamo, insieme agli SOD, della scena trashcore mondiale. Ci sentiamo Violent Pacification, appena la trovo, ma tanto è facile. E niente, anche loro mi sa che a breve sono in Italia, se non mi ricordo male. Questa è Violent Pacification, questi sono i Dirty Rotten Imbecilli. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go questi erano i Dierai con Violent Pacification. E adesso ci spostiamo. Ci spostiamo non nel tempo, ma sempre nel Texas. Andiamo a pescare dal cappello l'ultimo, anzi no, ci sono altri due gruppi della insomma degli assi, dei quattro assi del mazzo di carte che sta a rappresentare la storia dell'hardcore texano. Adesso vi parlerò un po' dei Dead Hicks, dei cazzi che odiano la polizia. L'EP da cui è tratta la prima canzone vi farò sentire ora, che tra l'altro è la prima canzone dell'EP stesso, che si chiama Dead Hicks Hate the Police. È il loro album di debutto, è in 7 pollici. È l'album di debutto di questo gruppo, è stato un gruppo seminale, soprattutto per la violenza e la frustrazione che rappresentava sul palco. E niente, ci andiamo a sentire i cazzi che odiano la polizia. Mi sembra giusto. Questi erano i Dead Hicks che odiano la polizia, non solo loro, ma vabbè. Adesso andiamo a conoscere l'ultimo dei Four of a Kind, i Big Boys. Anch'essi torniamo ad Austin, città bellissima, piena di vita e un po' più democratica rispetto a il resto del Texas. Questo non vuol dire che è un posto in cui andrei a vivere, anzi tutt'altro, l'America lungi da me, bella da visitare, bello suonarci, bello conoscere gente, ma viverci un po' meno. Bene, questa canzone qua si chiama Which Way to Go, dei Big Boys, gruppo seminale che ha mischiato poi in futuro diversi generi, tra cui il funky, diventando poi anche l'ispirazione per band come Red Hot Chili Peppers. E noi però ci ascoltiamo qualcosa che va bella a dritto, Which Way to Go dei Big Boys, a breve sui vostri stereo. tornati sulla revancia. Radio Wombat in cima al palazzo più punk. Nah, siamo sempre qui in studio. Questi di prima erano i Big Boys con Which Way to Go. E adesso volevo portarvi nel presente. Dopo aver attraversato gli anni 80, una bella scarrellata, come si dice a Firenze, una scarrellata di gruppi che rappresentano il Texas di questi giorni. E naturalmente tutto ciò attraversando le tre città principali del Texas, cioè Dallas, Austin e Houston. Vi farò sentire tre gruppi moderni, tra virgolette, belli veloci e incazzati, Power Trip, da cui ascolteremo Feeling Squad, tratto dall'album che è uscito quest'anno per Southern Lord, etichetta stupenda che fa uscire tutta roba tranquilla e brutta. E dopodiché ci spostiamo da Dallas, ci spostiamo ad Austin, ascoltandoci Getting Old dei Chest Pain, gruppo con cui abbiamo avuto il piacere di suonare, condividere non solo date ma anche del tempo e delle piacevoli discussioni. E poi ci sentiamo i PLF, Pret Little Flower, gruppo che vidi a Hamburgo nel 2006 totalmente a caso, in due erano all'epoca, batteria anche tuttora, anche se mi sa che si sono sciolti e hanno formato nuovi gruppi. Abbiamo suonato appunto con loro, con membri dei PLF e nuovi gruppi in cui ci sono i PLF dentro. Ci sentiamo Subconscious Retrospection. Che dite? Tutte e tre di fila così? A far male? Ma sì, dai, partiamo con i PLF. No, che con i PLF? Con i Power Trip. No! Bene, questi erano i PLF con Subcussion Retrospection, mentre quelli di prima erano i Chest Pain da Austin con Getting Old, quelli prima ancora Power Trip da Dallas con Feeling Squad. Dopo questa trilogia della violenza moderna texana, questi gruppi, oltre ad aver suonato in tutta l'America, sono andati in giro anche per tutto il mondo. E niente, dopo questa inaudita violenza proveniente dal Texas, torniamo negli anni 90, quindi torniamo indietro nel tempo e torniamo anche un po' indietro nelle sonorità, o avanti o dopo, non lo so, sta a voi decidere. Adesso volevo farvi sentire l'ultimo pezzo di oggi, l'ultimo gruppo texano di stasera, un gruppo di San Antonio, un gruppo per me molto importante perché mi ha aperto un mondo poi per tutto ciò che è post. Questi sono gli At The Drive-In con One Armed Scissor. Loro fanno post hardcore. Dico fanno perché sta uscendo un disco nuovo, molto atteso tra i fans. Secondo me non sarà un granché, però parere personale. Questa canzone qui, One Armed Scissor, inizio 2000 ed è la prima canzone di Relationship on Command. Sarà l'ultima canzone di stasera. At The Drive-In da San Antonio, One Armed Scissor. Queen, One Head Scissor. Con questa vi saluto, ci vedremo fra 2 settimane. Diminuirò un po' le puntate perché ultimamente il lavoro e non solo sta prendendo un po' troppo il sopravvento nella mia vita, quindi sarò un po' meno presente con la revancia, ma comunque cercherò di stare sul pezzo. Vi ricordiamo che siamo in diretta su Radio Wombat, una web radio based in Florence. Stay Wombat, mi raccomando, Stay Wombat. Potete trovarci su wombat.noblogs.org, buon vecchio sito, sono su Twitter, twitter.com/radiowombat, o su Facebook, facebook.com/radio-wombat-fidenze, oppure mandarci una mail a postawombat@libere.net. Questa era la revancia, arrivederci alla prossima puntata.